Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, è domenica 9 marzo 2014, è la 159esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Giona Vinti. Questa settimana torniamo al Parco dell'Abatino per conoscere l'esperienza di vita della scimmia Tapichi, sempre in compagnia del professor Antonio De Marco. Con Animal House invece affronteremo il cosiddetto progetto Penco, e cioè una petizione che chiede al Parlamento di prevedere una legge che consenta di donare organi e tessuti umani post mortem alla ricerca, in modo da favorire lo sviluppo dei metodi alternativi alla sperimentazione animale, una prospettiva importante, interessante, che cerchiamo di approfondire. E parleremo poi con una nostra compagna di viaggio, una delle fondatrici di questa trasmissione, Beatrice Montini, che ci ha dovuto abbandonare per ragioni di lavoro e si è trasferita a Milano, dove, lavorando al Corriere.it, il sito internet del Corriere della Sera, ha intrapreso una nuova avventura, e cioè un blog che si chiama Veggo Anch'io, Sì Tu Sì, dove affronta questioni della cultura vegetariana e vegana appunto in quel particolare ambito che è un sito di larga informazione. Poi avremo Gabriele Palloni che ci spiegherà come preparare il misterioso muscolo di grano, uno dei prodotti che molti vegetariani e vegani stanno imparando a consumare. E infine chiuderemo con la rassegna stampa Tigri di Carta, nella quale parleremo anche nuovamente di noi stessi, di questa trasmissione Restiamo Animali, che sta avendo un'espansione su un mensile. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Anche questa settimana, nella nostra rubrica Visti da vicino, incontreremo una singola storia di vita animale. Evidenzieremo quindi, come sempre abbiamo fatto, sia l'individualità di ciascun animale non umano, sia il collegamento tra la sua storia di vita e la sua attuale personalità. Torniamo al Parco dell'Abatino, in provincia di Rieti. Stavolta racconteremo la storia di Piki, una scimmietta la cui storia ha una straordinaria assonanza con le più moderne teorie psicologiche, sia per quanto riguarda la relazione madre-figlia, sia per quanto riguarda il ruolo sociale dei bambini. Stanno cercando di annaffiarci facendoci la situazione. Sì, questo è perché devono esibirsi e quindi devono richiamare l'attenzione. Ah, cioè ci stanno mostrando quanto sono interessanti. Sì, sono bravi, sì. Dunque, questo gruppo, tra l'altro, c'è una scimmietta, adesso non vedo, che è Piki, dunque, in cui c'è una storia un po' particolare, perché Piki, che adesso non vedo perché è sempre un po' timida, a farci vedere, adesso se la scorgo ve la indico. Piki praticamente l'abbiamo allevata noi a mano perché la madre, che la prima volta che partoriva, non la sapeva allevare. Ci siamo accorti il giorno stesso che è nata, ci siamo accorti che praticamente non la sapeva tenere, quindi non riusciva ad allattare, per cui l'abbiamo presa e l'abbiamo tenuta dentro casa per circa 4 mesi. Eccola lì, quella che sta lassù. È stato più lungo il periodo del reinserimento che non quella che l'abbiamo tenuta allevandola poi col biberò eccetera, però poi abbiamo cominciato l'opera di reinserimento che è stata molto lunga, perché venivamo prima un'ora al giorno, poi un paio di ore al giorno tenendocela sulla spalla, e così piano piano lei ha cominciato a inserirsi. Poi dopo circa un 5-6 mesi l'inserimento era completo, per cui è entrata nel gruppo. Quello che è successo è che, non avendo comunque avuto le cure parentali adeguate da parte della madre, all'inizio ha avuto difficoltà lei ad allevare i piccoli, per cui i primi 2-3 piccoli praticamente sono stati degli aborti, cioè non riusciva ad apprendere. Poi una femmina ha partorito e praticamente certe volte si scambiano i piccoli, quindi lei ha avuto l'opportunità di tenere un piccolo che non era suo. Ha fatto da zia, sì. E quindi che a un certo punto è riuscita ad allevare bene. Adesso c'ha 2 piccoli, adesso le stiamo controllando le nascite, quindi l'abbiamo fortemente ridotto questo. Però era riuscita appunto attraverso un apprendimento di questo punto di tipo culturale ad allevare come si deve il piccolo. Come fate il controllo delle nascite? Beh, noi usiamo essenzialmente degli ormoni che si infilano sotto cute e hanno una validità di circa un anno e mezzo o 2, poi bisogna rifarli. Quindi si tratta di... D'altra parte, l'animale è sottoposto a uno stress, nel senso che deve essere anestetizzato, almeno anche se per tempo breve con una dose molto blanda, però dobbiamo avere il tempo di prenderlo e mettere sotto cute con una siringa questo farmaco, quindi tutto si riduce in 10 minuti alla fine. Sono tutti agitatissimi, questi. Sono sempre i piccoli che hanno un'eccitazione. Sono molto vivaci, e poi è quello che conferisce al gruppo la vivacità. Adesso vi faccio vedere un gruppo, come anche quello delle bambine, non troverete niente di tutto questo. Qui si tratta di tutte femmine, uguale sarebbe se tutti maschi, sono solo tutti maschi, e che stanno lì tranquilli, ingrassano. Si calmano. Beh, qui invece è chiaro che tutto il gruppo è sollecitato poi dai piccoli ed è vivacizzato dai piccoli. Notizie, interviste, attualità. Sta girando in rete una petizione un po' diversa dalle solite proteste animaliste. Non si parla di salvare una particolare specie, o meglio, la relazione non è così diretta come in altri casi. In essa infatti si richiede al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute di colmare il vuoto legislativo per donarsi post mortem per una ricerca vera. Ne parliamo con Susanna Cavalieri, biologa dell'ARPAT, che ha seguito da vicino la vicenda. Susanna, spieghiamo bene cosa chiede la petizione. Questa è una petizione che nasce all'indomani della pubblicità del progetto PENCO, che abbiamo fatto in 30 amici e anche colleghi, nel senso che tutti e 30 lavoriamo a vario titolo nell'ambito sanitario. Questo progetto PENCO l'abbiamo pubblicizzato comprando una pagina su un quotidiano e pubblicato il 9 di febbraio, nel quale si chiede appunto al governo italiano una legislazione chiara che consenta la possibilità di donare organi e tessuti post mortem, quindi una volta morti, alla ricerca. Questo perché? Perché siamo convinti che lo sviluppo dei metodi alternativi alla vivisezione o sperimentazione animale, che dir si voglia, debba passare per lo studio del materiale umano, nel senso, se noi vogliamo curare le malattie che colpiscono la nostra specie, dobbiamo lavorare su tessuti e organi umani, non di altre specie. La sperimentazione animale è, come diceva a suo tempo anche Pietro Croce, un errore metodologico. Vogliamo appunto allontanarsi da quella che è una pseudoscienza ormai vecchia. La vivisezione si basa, non voglio neanche parlare di Cartesio, ma parliamo di Claude Bernardo e di Lee, e siamo intorno all'Ottocento. Dall'Ottocento ad oggi la sperimentazione animale non si è evoluta, non è cambiata più di tanto. E soprattutto è un metodo che non è mai stato validato, quindi certo. È un metodo che non è riproducibile. Qualcosa di nuovo c'è, e sono i cosiddetti xenotrapianti, ma gli xenotrapianti, o topi geneticamente modificati, alla fin fine che cosa sono? A mio avviso sono la riprova del 9 che la sperimentazione animale è fallita, immettendoci dentro come una sorta di tiro al bersaglio geni che nell'essere umano provano alcune malattie sperando di riprodurre un topo. Che cosa si ottiene? L'ennesima variabile, certo. una sorta di chimera che non è più un topo, non è più umano, non si sa cosa sia. E invece con questa petizione che cosa potrebbe cambiare all'atto pratico? Tutti quei materiali che derivano, diciamo, da interventi chirurgici, e purtroppo derivano anche da pazienti che muoiono, tutti questi materiali qui vengono trattati come rifiuti ospedalieri, quindi rifiuti ospedalieri speciali. Mentre per la ricerca sarebbe un materiale di importanza fondamentale, perché, ripeto, se noi vogliamo studiare le malattie sull'essere umano, dobbiamo avere a disposizione tessuti e organi dell'essere umano. È ovvio, non lo sto a dire perché è ovvio, non possiamo averlo un vivo. Noi tentiamo in qualche modo di trovare più adesioni possibili, perché una volta morti il nostro corpo, il nostro, quello che vogliamo, i nostri tessuti, i nostri organi, siano donati alla ricerca, ovviamente senza utilizzo di animali. Avere una norma chiara in questo senso vorrebbe dire poter effettivamente fare un testamento e quindi essere sicuri che una volta morti le nostre, diciamo, decisioni verranno rispettate, e soprattutto avremo la possibilità anche di individuare un centro di riferimento o anche più centri di riferimento in grado di avere, insomma, di ricevere questo materiale, saperlo trattare, congelare, eccetera, eccetera, e studiarci sopra. L'altra falsità, la voglio chiamare in questo modo, mi viene detta che i metodi alternativi non esistono. Non è vero. È vero che in Italia non vengono finanziati. In Italia purtroppo abbiamo un unico laboratorio, che è l'ARF, presso la Medicina Sperimentale di Genova, dove appunto lavora la dottoressa Penco, da cui nasce il nostro progetto Penco. Lì si fa un uso di linee cellulari umane e quindi lì veramente si fanno studi su metodi alternativi. Da altre parti d'Italia è estremamente difficile. Di fatto in Italia non ci sono soldi per andare avanti sulle alternative. Mentre dei progetti, per esempio il progetto Toxoma Umano, che viene all'indomani della sequenzazione del DNA, e quello è un progetto a livello europeo in cui si cerca di studiare quali sono i percorsi, diciamo, che producono nell'essere umano gli effetti tossici. Detto banalmente, cercano di capire perché ci si ammala. La Germania sta finanziando con 43 milioni di euro un progetto a cui partecipano ben 69 laboratori alla realizzazione in vitro del fegato umano. Avere una legge chiara aprirebbe tante strade. Tra l'altro, questa procedura qui non esclude neanche la possibilità di donare gli organi per trapianto. Quindi le due cose potrebbero insieme essere fatte contemporaneamente, e tanto, voglio dire, una volta subito dopo il decesso deve passare al massimo 24 ore, sia per l'una che per l'altra cosa. Quindi avere una legge però ti permette di dire, nel momento in cui abbandono questo mondo, lascio scritto questa cosa qua. Credo in una scienza che deve essere chiara, trasparente, aggiornata con le tecnologie attuali che ci sono, e una scienza che non faccia uso di animali, perché ormai non solo perché tecnicamente è inaccettabile, ma anche scientificamente ormai è dimostrato che non ha aiutato. Dobbiamo raggiungere 10.000 firme per poter presentare questa petizione, per cui se si vogliono trovare informazioni, riferimenti, dove si può guardare? Dunque, il progetto lo potete guardare all'indirizzo di internet www.progettopenco.org. Lì si può leggere l'idea del progetto, chi siamo, chi non siamo, da dove nasce, e da lì poi c'è il link per la petizione. E restiamo animali! Rain began to fall, the night was dark. On a lady's veranda I had to park. The lady says, Mister. Aprite Corriere.it. Scorrete fino in fondo alla pagina. Proprio alla fine del mega contenitore di notizie e pubblicità, vedrete che c'è uno spazio dedicato a blog e forum. Ci saranno circa una settantina di indirizzi. Tra questi, se cercate bene, troverete Veggo Anch'io, a cura di Beatrice Montini. In questo caso la citazione biblica «Andate e moltiplicatevi» appare appropriata, perché Beatrice Montini, coideatrice e redattrice della primissima edizione della nostra trasmissione, è stata costretta al trasferimento per lavoro, ma si è staccata solo fisicamente dal nostro programma, perché ha continuato a servire la causa comune e adesso, assieme a un collega, cura il blog Veggo Anch'io C2C, dedicato ai temi della cultura vegetariana e vegana. L'abbiamo raggiunta telefonicamente per dirle che ci manca tantissimo e per chiederle di commentare questa nuova piazza virtuale vegan, che è partita da poco, portando però in dote dalla nascita una bella visibilità nazionale, essendo ospitata nel mega contenitore Corriere.it. L'idea di Veggo Anch'io è nata un po' dall'esperienza di redazione, nel senso che la mia presenza vegana e nella redazione di Corriere.it suscitava sempre molta curiosità, interesse, domande, critiche. E quindi insieme al mio collega Alessandro Sala, che è vegetariano, abbiamo iniziato a pensare che forse, visto che c'era tutto questo interesse, era il momento di provare a fare un blog e discutere di questi temi. Curavamo già insieme il canale Animali del Corriere.it e quindi abbiamo iniziato questa avventura. Nei blog la cartina Tornasole consiste nei feedback dei lettori. Come sta andando da questo punto di vista? Sta andando molto bene, nel senso che il dibattito sicuramente c'è attorno all'argomento. Ci sono molte critiche, ci sono anche note positive, però sicuramente è una discussione che prende molto il lettore. La cosa più interessante del blog è sicuramente il contatto diretto con i lettori e soprattutto con dei lettori come quelli che sono del Corriere della Sera, di Corriere.it, che non sono, diciamo, abituati a parlare di questi temi e quindi hanno anche molte curiosità e a volte non sono esattamente informati su cosa significa essere vegan, vivere vegan e su cosa comporta questa scelta. Diciamo che però una cosa che mi fa abbastanza sorridere è che di qualsiasi cosa si parli nel post che pubblichiamo vengono fuori tre argomenti: la carenza di vitamina B12 nella dieta di vegani, che anche Hitler era vegetariano e che anche le carote soffrono. E naturalmente sono tutte persone che proteggono le carote astenendosi dal mangiarle. È possibile. Senz'altro. A parte queste perplessità sulla dieta, più in generale, cosa vi viene contestato? C'è un'autoreferenzialità, una voglia di imporre il proprio stile di vita, la propria visione del mondo, però c'è anche chi invece inizia a guardare con occhio diverso questi temi, anche perché il nostro blog non vuole essere assolutamente un blog che si rivolge solo ai vegani, anzi, vogliamo attirare più persone possibili e discutere pacatamente con tutti. Vi siete finora concentrati sulla cucina o avete spaziato anche in temi di cultura? E in che misura, diciamo, questi due temi sono stati un po' le vostre polarità? Sì, diciamo che abbiamo iniziato proprio parlando di cucina, sul canale Cucina, affrontando la cucina e quindi le ricette vegan e vegetali che incuriosivano molto. Però sul blog tentiamo di parlare non solo di questo, anzi di parlare proprio di cosa c'è dietro a una scelta di vita sia vegetariana che vegana, e quindi abbiamo affrontato vari temi, la campagna antispecista appena uscita ad Arezzo, animali no persone, poi altri argomenti legati al tema. Quindi tanti auguri al blog veggoanchio.corriere.it. Tra l'altro il sottotitolo è Sì tu sì, e quindi bellissimo sottotitolo, veramente inclusivo e invitante. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. When days are long, keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make. Oggi vi daremo una ricetta della base della cucina vegana, cioè quella del muscolo di grano, che altro non è che del seitan arricchito con della farina di legumi. Il procedimento è un po' lungo, quindi seguite attentamente. Gli ingredienti sono 1 kg di farina 00 biologica, mezzo litro di acqua, del sale, un'alga kombu, mezza radice di zenzero fresco, un cucchiaio di salsa di soia, 300 g di farina di ceci. Sono necessari un panno di stoffa non trattato e dello spago da cucina. Per preparare il muscolo di grano dobbiamo iniziare procedendo come per la preparazione del seitan, cioè impastando la farina con mezzo litro di acqua calda ed un pizzico di sale. Lavorate bene fino ad ottenere una bella palla che metterete in un recipiente capiente coprendola di acqua fresca. Lasciatela riposare per un paio d'ore, dopodiché iniziate ad impastare la palla lasciandola dentro l'acqua, che assumerà ben presto un colore bianco latte. Scolate l'acqua con un colino a rete fitta e continuate a risciacquare quello che rimane sotto l'acqua corrente, avendo cura di non gettare via l'acqua di risciacquo senza averla colata dal colino a rete fitta, perché nell'operazione di risciacquo una buona parte del seitan si stacca e si rischia di gettarlo. Lavate l'impasto alternando acqua calda e acqua fredda. Pian piano vedrete che la farina se ne va via e l'acqua di risciacquo sarà sempre più limpida. A questo punto il lavaggio è terminato. A parte, mescolate la farina di ceci con poca acqua fino ad ottenere una crema abbastanza densa. In un frullatore, o meglio se avete un'impastatrice, unite il glutine ottenuto prima con la crema di ceci e fate impastare bene. Otterrete un impasto abbastanza morbido e appiccicoso, che avvolgerete in un panno dandogli una forma cilindrica, che legherete con dello spago da cucina nel panno. Immergete il muscolo di grano in una pentola con l'acqua bollente e lasciatela cuocere per circa 30 minuti. A questo punto togliete il muscolo di grano dal panno e immergetelo in una pentola con nuova acqua bollente, la radice di zenzero, la salsa di soia e l'alga kombu e un po' di sale, e a piacere delle erbe aromatiche come alloro, rosmarino o salvia. Lasciate cuocere per altri 30 minuti e sarà pronto. Si conserva per alcuni giorni in frigorifero immerso nella sua acqua di cottura, magari già tagliato a fette piuttosto grosse. È possibile sostituire la farina di ceci con farina di altri legumi, come per esempio quella di lenticchie o quella di lupini. Se vi foste persi ingredienti, procedimento, la ricetta intera, non vi preoccupate perché potete ritrovare tutto sul nostro blog, che è restiamoanimali.wordpress.com. Quindi buon appetito e buona sperimentazione in questa cucina senza crudeltà, e aspetto i vostri feedback. Se avete domande, curiosità, foto anche delle vostre prestazioni culinarie, basta mandare un'email a restiamoanimali@controradio.it. Vi aspetto domenica prossima, l'appuntamento è sempre su Controradio nella rubrica Il Pasto Gentile. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista. Oggi cominciamo parlando di noi, perché sul mensile AM Terra Nuova, mese di marzo, prende avvio la rubrica Restiamo Animali, curata dalla nostra trasmissione. La prima puntata la trovate a pagina 8 del giornale e sotto il simbolo della nostra trasmissione, un bellissimo riccio stilizzato di colore grigio con la punta del naso rossa, si legge il titolo dell'articolo, scritto in questo caso da Camilla Lattanzi, Chi libera un animale è un terrorista. In questo articolo si racconta la storia di Camilla come attivista e come autrice radiofonica e poi anche la nascita della nostra trasmissione. La scelta del nome è ispirata dalla frase che Vittorio Arrigoni poneva alla fine dei suoi articoli durante l'assedio di Gaza nel 2011, cioè Restiamo Umani, e poi si delinea un po' il campo nel quale la rubrica si cimenterà nei prossimi mesi, la questione animale, in tutte le sue diramazioni, dalla filosofia al diritto, alla scienza, alla cultura, all'alimentazione. Nella parte finale dell'articolo scrive Camilla: per capire quali interessi globali vada a toccare il movimento per la liberazione animale, può essere utile sapere che negli Stati Uniti liberare un animale cosiddetto da reddito o da laboratorio è considerato un atto di terrorismo, alla stessa stregua di far esplodere bombe e tirare giù grattacieli. La questione animale si presta a una grande varietà di approcci. Ci siamo candidati come redazione di Restiamo Animali per accompagnarvi in questo viaggio, offrendovi un cocktail di spunti teorici, consigli pratici, recensioni letterarie e cinematografiche, petizioni e campagne in corso meritevoli di attenzione e appoggio, storie di animali liberati. Seguiteci dunque su AM Terra Nuova a partire dal numero in edicola in questo periodo, nel mese di marzo. Dall'edizione dell'Alto Adige del Corriere della Sera prendiamo un articolo veramente spaventoso, perché si racconta dei maiali utilizzati come cavie per fare dei test sulla resistenza umana sotto la neve in caso di valanghe. Il titolo è «I maiali come cavie negli esperimenti. Emergono nuovi test. Gli animali usati per studiare le valanghe». Stu Flesser, che poi è il presidente dell'ente che ha curato questi test, dice «Incredibilmente, nessun maltrattamento». Leggiamo qualche brano dell'articolo. È bufera sull'Eurac, dopo che, grazie a un documento di spesa pubblica su internet, il settimanale FF ha pubblicato la notizia che sono proseguiti anche nel 2013 gli animali sui maiali per studiare l'effetto sul fisico umano delle valanghe, con l'obiettivo di approntare le terapie per la cura intensiva delle persone che rimangono sepolte per lungo tempo sotto la coltre ghiacciata senza ossigeno. L'acquisto riguardava 14 maiali acquistati per un costo di 3.108 euro. Il fatto che gli animali siano stati di fatto sepolti nella neve, lasciati morire per studiare gli effetti dell'ipossia, dell'ipotermia, delle manovre rianimative cardiopolmonari sull'ossigenazione del tessuto cerebrale, aveva sollevato le perplessità della consigliera provinciale dei Verdi, Brigitte Foppa, che aveva annunciato un'interrogazione alla provincia. Si spiega poi che Foppa è rimasta tranquillizzata quando il tecnico che ha eseguito gli esperimenti in collaborazione con l'Università di Innsbruck l'ha rassicurata che gli animali sarebbero stati trattati nel modo dovuto. E qui c'è la frase direi assurda del presidente dell'Eurac, Werner Stufflesser: visto che gli animali sono stati sepolti vivi e sono morti per asfissia sotto la neve, il quale dice: al momento stiamo elaborando il materiale per redigere i risultati di uno studio entro la fine dell'anno e non sappiamo ancora se sarà necessario proseguire. È possibile. In ogni caso, gli animali non sono mai stati maltrattati o sottoposti a sofferenze, il che è veramente una frase senza senso, di un cinismo che confina con il teatro dell'assurdo. Maiali che muoiono soffocati sotto la neve, che non sarebbero stati maltrattati. Veramente incredibile il livello di acrobazia verbale che si riesce a raggiungere. Ultimo articolo che vi segnaliamo, un altro capolavoro di conformismo e di adesione ai più triti luoghi comuni, lo prendiamo dalla Repubblica del 2 marzo 2014, dalle pagine dedicate al cibo. Licia Granello si occupa della pecora. Il titolo è La pecora nel piatto. Questo animale viene, come di consueto, sbeffeggiato nel sottotitolo, la sua sfortuna di essere troppo buona. Leggiamo qualche brano da questo articolo, che dice: questo è il loro momento, riferendosi al periodo dell'anno,